Assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato è solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare. Se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare. Preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire, pensare e parlare, esplorare ogni capanna del villaggio globale, spalancare le finestre alla comunicazione personale, aprire il canale universale, dare fondo all'arsenale di parole soffocato dalle ragnatele di un'intera generazione di silenzio. Questo è ciò che penso, la vita è la mia scuola, do potere alla parola. Potere alla parola, sì. Dai potere alla parola, tu. Potere alla parola, sì. E vai con potere alla parola nella casa. E allora ciao, come sempre un ben trovati, un benvenuti qui nello spazio radio della Stampa Rassegnata, che è una sottocartella, così la possiamo considerare, della trasmissione di Radio Wombat, Passaggi a Nord-Ovest. È uno spazio nel quale ci siamo ripromessi ormai dall'inizio del 2018 di prendere in considerazione notizie e fatti della cronaca locale per quanto riguardano gli avvenimenti dell'area metropolitana fiorentina, con particolare riferimento a due vicende che seguiamo più da vicino nello specifico, con le loro spesso anche grosse e profonde implicazioni per tutto il tessuto cittadino, che sono la vertenza popolare contro la costruzione dell'inceneritore della Piana Fiorentina di Case Passerini e l'espansione e ampliamento del nuovo aeroporto e costruzione conseguente del nuovo aeroporto di Peretola. Come più volte vi ho detto, ci sentite in diretta il lunedì alle 15.30 e poi in replica il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì, sempre alle 15.30. Quindi vi consiglio, vi chiediamo, vi raccomandiamo di ascoltarci soprattutto in streaming e poi da appunto, diciamo proprio nella settimana nella quale staremo andando in onda, se volete, se potete, anche in AM, visto il tentativo di salto, di balzo della tigre che Radio Wombat ha compiuto umilmente in questo, proprio in questo periodo. Quindi sulla frequenza di onde medie, quindi AM 1359, ci potete provare ad ascoltare. Speriamo, stiamo lavorando anche con i tecnici autogestiti e dell'auto-organizzazione italiana, comprese anche le radio che ci supportano e con le quali stiamo, diciamo, tentando di aprire questa vertenza per riprenderci le onde medie, di migliorare anche il segnale, la qualità del suono, l'estensione della copertura. Quindi niente, supportate la radio e cercate di ascoltarci il più possibile in streaming e in diretta. Se no, per chi ha poco tempo o ha momenti di ascolto o particolare interesse nell'ascoltare alcune notizie e trasmissioni e non ha il tempo di farlo nel momento in cui vanno in onda, c'è sempre la possibilità di scaricare i podcast sempre dal sito di Radio Wombat. Brevissimamente, come funziona la nostra stampa rassegnata? Noi ci occupiamo di quello che succede, diciamo, settimanalmente, e prendiamo in esame una settimana in questo pillolo, così li abbiamo amichevolmente definite le puntate della nostra stampa rassegnata. Prenderemo in esame, in analisi, fatti e notizie di cronaca che vanno più o meno da lunedì 26 di febbraio fino alla domenica 4 marzo, che è la data, diciamo, di questo passaggio elettorale del 2018. Quindi, proprio in questo, diciamo, dalla diretta del lunedì, mentre saremo tutti affaccendati, mentre siamo tutti affaccendati e preoccupati di quelli che saranno gli esiti, di quelli che sono stati appunto gli esiti della tornata elettorale, cercherò di distrarre la vostra attenzione appunto da queste enormi preoccupazioni, che ovviamente hanno anche a che vedere con le vicende di cui parleremo. Ma ecco, facciamo, diciamo, un passo indietro in quella che è la settimana preelettorale e guardiamo quello che è successo. Ovviamente, proprio per quello che ho detto, non possiamo questa settimana che partire dalle notizie del martedì 27. Le prendiamo una per tutte dalla Nazione. Sostanzialmente, poi il fatto è sempre quello, e cercheremo di commentare. Proverò a in qualche modo sintetizzarvi, se è possibile, o comunque fare un focus su quello che è successo intorno alla vicenda aeroportuale. E appunto, cominciamo con questo articolone. È un due pagine della Nazione. Dedicato, diciamo così, dedicato alla città e alle grandi opere, e abbiamo per l'ennesima volta, perché per chi segue o ha prestato attenzione appunto, soprattutto alla Nazione, abbiamo un continuo utilizzo di questa enfasi sul volo, e ancora una volta si parte con l'articolo che titola Si decolla. È composto con alcune notizie. La notizia, appunto, diciamo rilevante, che in qualche modo avevamo già annunciato sia all'interno di questo spazio radiofonico della stampa rassegnata, perché già era uscito dall'inizio dell'anno almeno un paio di volte. Lo avevamo anticipato e per certi aspetti anche approfondito in un'intervista. O più interviste che abbiamo già rilasciato come attivisti del Presidio Non Inceneritore No Aeroporto, come attivisti della campagna e dell'opposizione popolare contro la costruzione dell'aeroporto, sempre su Radio Wombat, sempre sulla trasmissione Passaggio a Nord-Ovest, la questione della possibilità che Toscana Aeroporti compri l'area Unipol. E infatti l'articolo della Nazione, centrale di questo doppio paginone, dice: Si decolla, Toscana Aeroporti compra l'area Unipol. Poi ci sono, diciamo, la pagina è composta da sostanzialmente 3-4 riquadri. Sulla sinistra abbiamo la mozione approvata in Consiglio Comunale e Sesto Fiorentino prepara il ricorso al TAR. Poi Toscana Aeroporti compra l'area Unipol. Si sblocca il tappo Castello, effetto a catena su mercato e stadio, aggiorni la firma. Poi dall'altra parte della pagina, patto fra comune e grossisti, insieme per la progettazione, e sotto, partita di giro milionaria per la Mercafir. A Castello nascerà un altro ostello a 5 stelle. Proviamo a guardarli un attimo insieme, cercando appunto di dedicarci a dare degli elementi di comprensione per quello che è possibile, tenendo anche conto che non sempre è facile dipanare la matassa, soprattutto per quanto riguarda gli strumenti della pianificazione. Comunque, appunto, la notizia rilevante della quale stiamo parlando è appunto questa, cioè la volontà che è dichiarata da Toscana Aeroporti di comprare l'area Unipol. L'articolo a firma di Ilario Livelli riporta un po' la questione. Pare che Unipol sia pronta a chiudere la trattativa per la cessione alla SPA che gestisce gli aeroporti di Firenze e Pisa dell'area di Castello. Quindi quest'area di Castello, di cui spesso si è parlato e che, diciamo, per collocarla geograficamente, si tratterebbe della parte dietro alla nuova caserma dei Marescialli. Quindi, diciamo, se scorrendo sul viale 11 Agosto, andando da Firenze verso Peretola, abbiamo a destra, alla nostra destra, la nuova caserma dei Marescialli. Poi quella che appunto si viene identificata come area di castello è tutto ciò che sta alle spalle della nuova caserma Marescialli, delimitato appunto a sinistra, tenendo presente il punto di osservazione che vi ho dato, cioè lo stare sul viale 11 agosto procedendo da Castello, quindi dal Monte Morello, andando verso Peretola, dietro la caserma Marescialli e diciamo a sud della ferrovia, quella che è via della Cappella, quello che è la vecchia fabbrica Sun Chemical, quella che è all'inizio del viadotto dell'Indiano dalla parte di Castello, quello stabile di colore verde posto sotto sequestro per una vicenda anche abbastanza oscura di cronaca nera che si chiamava Loca, e, insomma, quella zona lì, che poi è anche ad oggi la fine poi dell'attuale pista di decollo atterraggio di Peretola, quella appunto tanto discussa come pista perpendicolare all'autostrada, e è la stessa pista che dovrebbe nel progetto di aeroporto diventare parallela all'autostrada. Questa è, nel tentativo di darvi a parole una descrizione geografica, tentativo di cui mi scuso se magari ho fatto un po' di confusione, ma vi renderete conto anche voi che non è facile. Era per far ubicare il più possibile anche l'ascoltatore meno esperto, perché comunque appunto è rilevante. Quindi tutta questa area di proprietà della Unipol. Si dichiara la disponibilità da parte di Toscana Aeroporti a comprarsela. Alla base della decisione di far propria l'intera area e non solo i terreni necessari all'ampliamento dell'aeroporto, la volontà di Corporación América Italia, che è la società del magnate argentino Eduardo Eurnekian, che è recentemente salita al 55,7% del capitale di Toscana Aeroporti. La volontà di far finalmente decollare lo sviluppo del quadrante a nord-ovest di Firenze, unica area d'espansione della città esclusa dal piano strutturale a volumi zero, varato da Palazzo Vecchio nel 2011. Ecco, quindi questa è, diciamo, la notizia. Toscana Aeroporti comprerà tutto per poi rivendere al prezzo d'acquisto. Non saranno fatte speculazioni, non è quello l'obiettivo. L'intento dichiarato è mettere ordine allo sviluppo. Dunque, terrà per sé le aree funzionali allo sviluppo, secondo quanto previsto dal master plan per l'aeroporto, oltre alle fasce di sicurezza imposte da ENAC, gli spazi per la realizzazione della nuova aerostazione e dei parcheggi. Sulle intenzioni di Eurnekian ha messo il sigillo anche Matteo Renzi, ovviamente, no? Eurnekian vede sempre con maggiore favore la possibilità di far crescere i suoi investimenti qui, nonostante le complicazioni della burocrazia. Questa è stata la dichiarazione di quello che viene sempre chiamato del Premier Matteo Renzi. Ci sono poi delle ulteriori dichiarazioni che sarebbero, diciamo, riferite al futuro, per cui inglobare anche in futuro l'aeroporto Marconi di Bologna, per consentire la realizzazione del polo aeroportuale dell'Italia centrale. Qui appunto si va ancora oltre, si pensa in modo ancora più in grande, diciamo. Per adesso appunto queste dichiarazioni lasciamole un po' per quello che valgono e per quello che possono contare. Più appunto interessanti dal nostro punto di vista è quello che abbiamo detto, cioè la volontà di Eurnekian, che appunto è il magnate proprietario di Corporación America, che possiede la maggioranza di Toscana Aeroporti, di comprare tutto. Quindi sostanzialmente si utilizza appunto il grande capitale di questa super impresa per mettere ordine, dare avvio a una a una nuova progettazione di questo quadrante dell'area metropolitana fiorentina, indubbiamente centrale e importante. Con questo tipo di dichiarazioni, sempre che le cose poi vadano in questa direzione, si va a insistere, a muoversi su una scia e su una prospettiva di speculazione in quest'area di Castello che è vecchia di almeno una trentina d'anni. È una vicenda quella di questi terreni che più o meno siamo intorno ai 168, 170, 180, forse un po' di più, ma insomma siamo circa sui 200 ettari di terreno, compresa anche la scuola Marescialli, e è una vicenda sulla quale si era già incagliata la giunta Domenici, so chi si ricorderà del sindaco che sembrava allora, siamo nel 2008, favorire gli interessi di Ligresti, per l'appunto che allora era proprietario dell'area, nel costruire in questa porzione dell'area fiorentina, oltre alla scuola Marescialli, che ad oggi è appunto già costruita nonostante i periodi di fermo della magistratura, i problemi di progettazione, tutto quello di cui è stata protagonista quest'area, anche il nuovo stadio, un nuovo quartiere residenziale con uffici, case e scuole. Questo era quello che prevedevano per appunto la giunta Domenici, e era ovviamente un'operazione speculativa in piena regola che avrebbe portato dei guadagni enormi a questi privati, sacrificando poi anche ogni possibilità di una pianificazione urbanistica che fosse al servizio degli abitanti, dei cittadini e che tutelasse zone di rispetto e di verde di cui abbiamo indiscutibilmente moltissimo bisogno. Su questa vicenda si incagliò quella giunta che poi arrivò alla fine del suo mandato in modo abbastanza triste per quanto riguarda appunto le vicende che la colpirono proprio per quanto riguardava le modalità con cui faceva partire il project financing, con cui intratteneva e costruiva relazioni e rapporti con i privati. E appunto proprio Domenici che fu intercettato al telefono con Biagi dicendo quel parco mi fa cagare da sempre, riferendosi al Parco della Piana, nel tentativo malcelato di appunto favorire la costruzione dello stadio in quell'area di Castello. Questa appunto operazione portò poi a delle indagini della magistratura e Domenici si andò pure a Roma a incatenare un cartello stradale, una scenetta abbastanza triste ma significativa di quella che fu quella classe politica che insomma ricorderemo poi, ricorderemo sempre in quell'anno la fine del processo con cui tentarono di arrivare alla costruzione del piano strutturale che si fermò con la fine di quella giunta, che poi fu consegnato per come era a Renzi. Che nel 2009 con il suo mandato cominciò un altro iter con una sorta di nuova filosofia di approccio, cominciò a parlare di piano a volumi zero, un piano di maggiore rispetto per quelle che erano le aree urbane, sembrava appunto voler proprio di dover tener conto di quella che era stata l'esperienza della giunta precedente, che si era andata proprio a incagliare appunto sulla speculazione, sull'affarismo immobiliare, quindi l'inizio del lavoro degli uffici urbanistici sotto Renzi sembra apparentemente muoversi sotto un altro segno, e poi di lì in poi il piano strutturale che è diventato regolamento urbanistico dal 2010 in poi ha in realtà aperto a nuovi affari e non ad un minore ruolo dell'affarismo e dell'immobiliarismo su tutta l'area metropolitana fiorentina. Quindi non è cambiato molto, anzi diciamo che per certi versi alcuni aspetti si sono anzi approfonditi, nonostante si muovano in quella che possiamo considerare una cornice che fa da sfondo un po' a tutte le riforme o le controriforme, che è quella del doppio stato, per cui da una parte si dà un'immagine di partecipazione di apertura, di presa in seria considerazione di problemi e contraddizioni sociali, ambientali, ecologiche, sanitarie che sono sempre meno nascondibili e lo si fa con quella che a me sembra sia un'immagine efficace che ha proposto Zagrebelsky, che è quella della faccia, del volto democratico dell'oligarchia. Dall'altra parte, però, poi i processi proseguono, l'accumulazione di profitto ha le sue regole ferree e quindi anche sulla città e sui volumi zero di cui si è tanto parlato, di cui si millanta una certa efficacia, una capacità di tutelare l'area metropolitana, ci si infischia poi nei processi concreti. Quindi, insomma, se Toscana Aeroporti dichiara che per rilanciare lo sviluppo dell'area nord-ovest di Firenze acquisterà appunto questi terreni dalla Unipol e poi li rivenderà al comune. Da questo punto di vista, una differenza rispetto ai tentativi di Biagi, Scioni e Domenici di collocare lo stadio proprio sull'area di Castello è invece lo scambio che questa giunta Nardella sembra voler portare a casa a tutti i costi, cioè anziché costruire la cittadella viola nell'area di Castello, si parla da tempo di spostare la Mercafir nell'area di Castello e invece costruire la cittadella viola al posto dell'attuale Mercafir nella zona di Novoli. Questo è un po' quello che i giornali in questi mesi hanno chiamato domino e che appunto attraverso la volontà e il rapporto strettissimo tra Toscana Aeroporti e quindi Corporazione America, ripetiamolo, che è l'azienda, la mega impresa che comanda dentro Toscana Aeroporti avendo la maggioranza delle azioni, e la politica fiorentina si va a rinnovare. Quindi se 15 anni fa avevamo la coppia Ligresti-Domenici, oggi abbiamo invece un altro giglio magico che è fatto da Renzi, da Nardella, da Carrai, da Eurnekian, da Della Valle. Questi sono i protagonisti di questo spaccato della vicenda. Ovviamente, per quanto riguarda nello specifico Toscana Aeroporti, l'interesse è quello di accelerare o comunque condizionare in maniera irreversibile lo sviluppo di questo quadrante a nord-ovest intorno alla presenza del nuovo aeroporto. Questa in sostanza è ciò che Toscana Aeroporti vuole ottenere. Pur di ottenerlo, è disposta anche sostanzialmente ad anticipare i soldi, cioè li anticipa per il comune, si fa acquirente di tutto lo spazio, andando a realizzare quella che altrettanto efficacemente è stata definita dagli urbanisti del gruppo Per un'altra città come un'operazione di land grabbing, cioè di sostanzialmente di accaparramento, di appropriazione della terra in grandissima quantità, perché è una porzione immensa della nostra area metropolitana fiorentina, con l'intento di condizionarla. Ovviamente l'intento di condizionarla non è per niente un'idea peregrina, proprio perché intorno all'aeroporto continuano ad addensarsi dei problemi, anche dei problemi amministrativi. Lo abbiamo detto varie volte, e infatti, non casualmente, come citava anche l'articolo della Nazione, è una notizia significativa e che in qualche modo come movimenti, come comitati, accogliamo anche con favore. Perché la riteniamo per certi versi frutto anche delle nostre mobilitazioni, cioè il tentativo del Comune di Sesto, guidato dalla Giunta Falchi, di ricorrere al TAR, al Tribunale Amministrativo Regionale, contro appunto il decreto di VIA per l'aeroporto di Firenze. Decreto che i giornali hanno commentato più volte con le stesse enfatiche espressioni di si decolla, si parte, via col vento e chi ne ha più ne metta, intorno sempre alla solita idea, ideologia, un mito del volo, che è stato ottenuto praticamente ad inizio dell'anno, quindi con il 20 gennaio appunto di quest'anno, del 2018, c'è stata diciamo, l'approvazione definitiva, che è avvenuta facendo leva su una legge nazionale, il decreto Galletti, approvata invece a giugno, proposta a giugno e poi approvata a luglio, comunque in sostanza in estate del 2017, e che ha permesso al progetto presentato da ENAC Toscana Aeroporti di superare le prescrizioni che erano state poste al progetto presentato. Quindi questo è ancora ciò che pesa ancora sul progetto di nuovo aeroporto. Ci sono tante criticità che gli enti competenti hanno in qualche modo preso in considerazione. Non c'è stata una bocciatura, ovviamente siamo convinti che una bocciatura non c'è stata proprio per il peso politico che l'investimento sull'aeroporto di Firenze, che viene considerato opera strategica, ha, e non c'è stata una bocciatura, però ci sono state molte prescrizioni. Prescrizioni chiaramente relative al fatto che questo aeroporto vorrebbe essere realizzato dentro un'area metropolitana popolatissima, appunto, quindi con rischio voli e sorvoli per nuove aree, che saranno appunto nella direzione di Prato, Capalle. Sì, Prato, insomma, Capalle prima, poi Prato. Per quanto riguarda i voli su Firenze, è una realtà sempre occultata da coloro che descrivono la vicenda aeroportuale, ma sappiamo che con un calcolo quasi del 20% ci sarà necessità da parte degli aeromobili di atterrare o decollare in direzione Firenze, proprio perché la pista, diventando nei loro progetti parallela all'autostrada, sarebbe direzionata da una parte, come ho detto, verso Prato, dall'altra verso Firenze. Vi invito anzi a guardare sul sito Piana Sana, lo potete diciamo digitare tranquillamente su Google e verrà fuori il sito, le simulazioni di volo e di atterraggio e di decollo che sono state fatte da alcuni ricercatori del CNR che hanno lavorato alla simulazione, e sono direi interessanti, soprattutto quelle dal lato Firenze, che sono abbastanza impressionanti perché passerebbero sopra il parco di San Salvi e poi proseguendo verso più o meno su via Vittorio Emanuele, quindi alcune parti di Rifredi, per poi fare proprio il pelo alla nuova caserma Marescialli e entrare in quella che sarebbe la pista, famosa pista di 2400 metri, che comincia proprio a ridosso, poco oltre la scavalcata, quello che sarebbe una sorta di muro costituito dalla caserma Marescialli, per poi andare a finire quasi al casello dell'autostrada di Firenze Nord. Quindi tutta questa serie di criticità, come ho detto, i sorvoli, come ho detto, non ho detto l'aspetto idrogeologico, i lavori dovrebbero cominciare tenendo conto dell'interramento del fosso reale, quindi un colpo se non letale, comunque sicuramente critico all'assetto idrogeologico, alla cassa di espansione dell'Arno e appunto al sistema fluviale della Piana Fiorentina. Non ultimo aspetto quasi mai sollevato, quello del carico di inquinanti dovuto non tanto a questo traffico aereo, o meglio, ovviamente anche a questo traffico aereo, ma alle proiezioni di sviluppo che il nuovo aeroporto porta con sé, perché obiettivi dichiarati di Toscana Aeroporti sarebbero quelli di arrivare a decuplicare il numero dei voli, quindi con una pista di 2400 metri che sarebbe funzionale all'atterraggio e al decollo di aerei più grandi, quindi aeromobili dalle prestazioni e dalla capacità di trasporto maggiore, aeromobili che riuscirebbero a fare percorsi più lunghi e quindi l'aeroporto diventerebbe aeroporto intercontinentale. E chiaramente porterebbero con sé anche un aumento degli inquinanti. Ovviamente gli aerei non sono affatto, insomma, come gli inceneritori, come abbiamo sempre detto, non sono macchine magiche. Però Solo per fare, diciamo, un banalissimo, uno stupido esempio, basta prendere i biglietti di Trenitalia, sui quali, diciamo, per incentivare, in qualche modo sostenere il viaggio in treno, si vedono degli schemini dove si può tranquillamente vedere come complimenti con la scelta del treno hai contribuito a risparmiare al pianeta emissioni di CO2. Ad esempio, confronta i chilogrammi di CO2 emessi in media per un passeggero che viaggia sulle tratte. Si vede un'infografica su ogni biglietto di Trenitalia, se lo acquistate lo trovate anche in terra, tipo per andare tra Napoli e Milano con il treno si emettono 31 kg di CO2, con l'automobile 76, con l'aereo 115. Sulla tratta Roma-Venezia con il treno 26, con la macchina, con l'automobile 52, con l'aereo 104. Ovviamente queste sono statistiche medie, però sappiamo con certezza che un aereo 3, 6, 9, 12, quindi è 4 volte quello che come emissioni di CO2 si immette nell'aria rispetto al treno. Questo ovviamente era solo per fare un esempio, per prendere una cosa che circola tranquillamente, quindi non sono notizie date da complottisti, dagli studiosi delle scie chimiche, da ciarlatani o da particolari estremisti ecologisti, sono notizie che Trenitalia divulga in tranquillità sui propri biglietti e le prendiamole per quello che sono. Insomma, accettiamo il fatto che gli aerei viaggiano bruciando combustibili fossili, e quindi emettono una grossa quantità di inquinanti nell'aria, non ultimo il CO2, che è un'emergenza, rappresenta un'emergenza planetaria, e quindi gli obiettivi di aumento a dismisura dei voli e l'inserimento di aeromobili sempre più grandi in quest'area metropolitana così popolata, oltre a costituire un rischio non da poco per quanto riguarda i sorvoli. Quindi le possibilità sì esigue, ma comunque pur sempre esistenti, di incidenti aerei, porta con sé anche un problema e un aggravio di sicuro notevole rispetto agli inquinanti e alla qualità della nostra area. Appunto, Toscana Aeroporti cerca di condizionare il quadro mettendo a disposizione i propri capitali per riassettare tutto questo quadrante, questo passaggio a nord-ovest, è proprio il caso di dirlo, proprio perché anche da un punto di vista amministrativo le criticità progettuali restano e non sono da poco. Le criticità progettuali, come ho detto, sono state, è stato, gli è stato permesso a Toscana Aeroporti di superarle attraverso la pubblicazione quest'estate di quello che abbiamo, insomma, che si può diciamo riassumere come decreto Galletti. Vorrei su questo dire alcune cose, forse non l'ho fatto mai, prendo a questo punto la palla al balzo in questa puntata per dire qualcosa di più. Questo decreto Galletti non ha riguardato solo l'aeroporto di Firenze, anche se gli osservatori più attenti hanno fatto notare come sembri in effetti proprio costruito ad hoc e cucito proprio sulla situazione di difficoltà amministrativa dell'aeroporto di Firenze. E diciamo, chi pensa male pensa bene, spesso e volentieri, tenendo proprio conto del rapporto anche esistente tra il governo Renzi e quello che è la piana fiorentina. Insomma, quanto non sarà un caso se anche per le elezioni nazionali Renzi ha voluto, insomma, voluto candidarsi per i collegi fiorentini, e quanto ha insistito sempre negli anni rispetto alla sua appartenenza e al suo senso di rispetto e di riconoscenza nei confronti di Firenze, che a suo modo ricambia e ha sempre ricambiato così. E quindi il decreto Galletti non riguarda solo l'aeroporto di Firenze, va a rivedere che cosa? Tutta la direttiva sulle vie. Che cosa fa? Praticamente distorce una direttiva europea del 2014, su tutte le valutazioni di impatto ambientale, cioè proprio su come le valutazioni di impatto ambientale vengano fatte, sulle procedure interne, sul significato che queste valutazioni di impatto ambientale devono avere rispetto alle opere e il rapporto tra gli enti pubblici e i proponenti le opere. Quindi il governo Gentiloni, con il suo ministro dell'ambiente, appunto Galletti, da qui il nome, ha modificato e integrato la precedente normativa. La precedente normativa era del 2006, facendo praticamente, distorcendo, piegando la normativa, la direttiva europea del 2014 alle necessità del capitale italiano e internazionale che viene a investire attraverso le grandi opere. Perché se con la direttiva europea del 2014 l'Europa aveva come obiettivi dichiarati quelli di, cito testualmente, proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. Questi erano gli obiettivi della direttiva europea del 2014. Praticamente si è completamente distorto tutto questo, cioè da una parte l'Europa diceva rivedete la normativa, le normative europee sulle VIA proprio per fare tutto questo, cioè tutelare, salvaguardare l'ambiente, la salute, bla bla bla bla. Invece che è successo? La direzione è stata contraria, quindi si sono semplificate le regole a favore di coloro che propongono le opere. Chiaramente questo va anche a scapito della partecipazione dei cittadini, anzi è stato aumentato il controllo politico sugli organismi tecnici e questo permette ai progetti che sono stati presentati di sottrarsi alle norme, anche di sottrarsi alle norme precedenti, come appunto è successo all'aeroporto di Firenze. Che è successo? Le 142 sono state le prescrizioni che erano state fatte al master plan. Toscana Aeroporti ha chiuso quell'iter che si era chiuso con 142 prescrizioni e ha ripresentato il master plan con la nuova procedura di VIA autorizzata dal decreto Galletti. In questo modo, il 20 gennaio del 2018 ha ottenuto il via libera proprio perché le richieste della VIA sono inferiori, perché tutto quello che vi sto tentando di spiegare sostanzialmente, no? Sembra proprio di essere di fronte a normative approntate, come ho detto, su richiesta per il caso fiorentino. La semplificazione di queste procedure, fa sì che il rilascio dei provvedimenti di VIA può avvenire su una documentazione più generica, meno determinata rispetto a prima. Quindi c'è un ridotto livello delle informazioni, che di fatto compromette sia la possibilità che i cittadini possano intervenire, puntualizzare, eventualmente anche contestare il progetto definitivo. E si passa a un rapporto e a dichiarazioni di progetto molto meno stringenti, quali sono quelle dei progetti di fattibilità. Questo è quello che richiede l'attuale normativa. Il controllo politico viene esteso anche alla nomina dei membri della commissione tecnica e di verifica dell'impatto ambientale VIA, la cui funzione è decisiva sia nella parte istruttoria che nell'adozione dei pareri di compatibilità ambientale. Si dà poi la possibilità al ministro di nominare direttamente i commissari. Questo ci sembra proprio il modo in cui si può, la politica piega e distorce ogni cosa, mettendo sui tecnici un controllo molto forte, no? Si può tranquillamente immaginare che la selezione dei tecnici che andranno ad essere inseriti nelle varie commissioni, in base a che cosa sarà condizionata dal grado, come si può dire, di affinità, di compatibilità rispetto alla politica dei candidati e alle prospettive considerate strategiche, no? Sembra abbastanza evidente. Poi c'è l'aspetto che al proponente, a chi propone le opere grandi o medie che siano, viene data la facoltà di contrattare con le autorità pubbliche e di definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali, cioè lo concordano, cioè non viene stabilito cosa deve essere dato, portato, dimostrato anticipatamente, ma viene concordato volta per volta e quindi è tutto molto più semplice. Poi l'esenzione dalla procedura di VIA si estende oltre ai casi di evidente urgenza relativi ad opere per la protezione civile, che quindi vanno, diciamo, in deroga perché sono considerate necessarie, anche a generici casi eccezionali di cui boh, non si sa. Cioè, ci sono dei casi che sono considerati eccezionali in cui non si chiede neanche la VIA. Si estende la possibilità di essere esentati come per opere per la protezione civile. Poi c'è la questione delle sanzioni per inadempienza. Nel caso in cui c'è un'inadempienza, c'è il sistema delle sanzioni, è veramente ridicolo, cioè diventa quasi un invito ad evadere e sì, insomma, ad andare contro la legge, perché chi realizza un progetto o una parte in assenza di VIA c'è una multa, c'è una sanzione, dai 35.000 euro ai 100.000 euro. Ora, appunto, le cifre sono cose importanti in molte situazioni, in questa situazione lo sono, cioè 35.000 euro di multa o anche fossero 100.000 euro di multa per chi realizza un aeroporto o opere di questa portata e del volume di affari che gira intorno a cose di questo genere, capite bene che sono multe ridicole, cioè conviene proprio o conviene o comunque se non conviene muoversi senza via o in opposizione alla via, è comunque incentivato il meccanismo per cui te paghi e puoi andare contro, puoi avere delle deroghe. Quindi ci sembra appunto che tutto quello che ho tentato di dirvi, che riassunto a sua volta, riassunto da un riassunto portato come contributo di un compagno urbanista che da tempo lavora intorno a queste questioni, Antonio Fiorentino, che ha appunto pubblicato al quale anzi abbiamo collettivamente pubblicato un opuscolino dal titolo ironico Di Galletti e Polli, rapaci che svolazzano sulle nostre teste, riassume quello che è il sistema della VIA. Ed è tutto questo che ha permesso ad oggi al progetto Master Plan di Toscana Aeroporti di arrivare ad ottenere la famosa VIA che è stata più volte commentata, come ho detto, con i si decolla, si parte, bla bla bla. Quindi è chiaro come il tentativo di Toscana Aeroporti di condizionare e fare favori per lo sviluppo di tutto questo quadrante dell'area metropolitana sia un tentativo di condizionarlo in maniera irreversibile per garantirsi la possibilità di procedere, possibilità che invece, lo dico per l'ultima volta, scusate se divento palloso, possibilità di procedere che anche da un punto di vista procedurale e amministrativo è tutt'altro che scontata. A dimostrarlo uno per tutti il ricorso che presenterà a breve il comune di Sesto, forse anche altri comuni si sommeranno allo stesso ricorso o faranno ricorsi diversi su altri aspetti, proprio perché le criticità sono ancora moltissime rispetto allo stesso, alla capacità progettuale. E in tutto questo non si prende sostanzialmente in considerazione un aspetto ancora più generale, che è quello che come movimenti e come cittadini e abitanti che si oppongono dal basso, è proprio il ridisegno di questo quadrante, cioè i ricorsi, come abbiamo visto, anche quello, anche quello che è stato fatto al TAR e sul quale ancora non si è espressa, o perlomeno non è ancora pubblico, la sentenza del Consiglio di Stato, sono aspetti relativi alla correttezza formale dei procedimenti, no? Cioè prendono in considerazione aspetti interni alla progettazione e non a monte quello che è la volontà popolare o le necessità popolari di trasformazione del territorio e quello che invece è il tentativo di appropriazione privata fatto da poteri forti, grandi e piccoli, in questo caso dei veramente dei titani dell'affarismo, come abbiamo visto Toscana Lo Corti, ma anche altri operatori, visto che intorno all'area Mercafir non ci sarebbe solo lo spostamento dell'attuale area del mercato nella zona di Castello, ma si parla di andare a costruire ancora una volta anche case, uffici e servizi, residenze private. E poi ci sarebbe anche una parte turistico-ricettiva che sarà destinata ad accogliere studenti. Sì, ma studenti come? Con gli ostelli a 5 stelle che sono il nuovo business. Quindi è evidente come tutta questa porzione di territorio, che ripeto ancora, siamo sui 168, 170, 180 ettari, non va a ospitare funzioni sociali di nessun tipo, se forse possiamo considerare la Mercafir, ma che potrebbe stare tranquillamente dov'è, ma viene spostata per fare spazio a una cittadella viola che non è solo uno stadio, ma è a sua volta un progetto a sua volta speculativo, affaristico, dove al calcio si aggiungono elementi di ristorazione, di intrattenimento, di galleria commerciale, e quindi questo è il senso delle trasformazioni che stiamo subendo. Diciamo, per quello che riguarda la questione dell'aeroporto, oggi la chiudiamo qui. Mi sto ripromettendo di fare puntate più piccole. Solo l'ultima cosa, una notizia sulla quale poi prometto, diciamo, di ritornare perché è interessante, è dal Corriere Fiorentino del 28 di febbraio. Apprendiamo tutto questo muoversi intorno agli affitti. C'è la battaglia, si apre la battaglia, tor ci torneremo perché sicuramente continuerà la battaglia, insomma, lo scontro di interessi tra aziende e operatori diversi per quello che riguarda gli affitti a medio-lungo periodo di case, soprattutto riferite al centro storico. Sappiamo che case per fiorentini a tempo, ognuna frutta 12.000 euro l'anno. C'è una rete di appartamenti gestita da Leonardo Ferragamo, che non è niente Air Bed and Breakfast, e il soggiorno medio è di 80 giorni. Sto, diciamo, leggendo qua e là alcune parti dell'articolo che ho selezionato. Ogni appartamento, tolte le spese, le tasse e il costo di gestione, è usato per affitti medi e brevi, frutto ogni anno a Firenze 12.000 euro in media. Questo è quello degli affitti turistici e del turismo di affari. È un settore gestito dalla Halldiz, che scritto Halldiz, che forse però nella pronuncia Halldiz potrebbe essere tutto questo all'inglese, lo dico senza saperlo, società fondata 30 anni fa da Leonardo Ferragamo e Pietro Martani, che si occupa di locazioni immobiliari in tutta Italia, che fa parte anche di una rete europea Windows on Europe a livello europeo. Solo a Firenze questa Halldiz, inserita nella Windows of Europe, gestisce 400 appartamenti con il proprio portale. Niente Air Bed and Breakfast, lo ripete per la seconda volta il giornalista, proprio a voler, diciamo, marcare la distanza che c'è tra Air Bed and Breakfast e quella che è invece una rete di case di fascia alta, no? Infatti, questi appartamenti non sono Air Bed and Breakfast, e lo dice per la terza volta, sono cercati e vengono proposti a una fascia di clientela medio-alta. La Halldiz Sì, alla Halldiz si rivolgono anche quelli che nella ricerca sono definiti cittadini temporanei. Ecco, anche questo è un aspetto interessante, così solo un passaggio brevissimo, ma va notato. Il titolo era Fiorentini a tempo, qui è cittadini temporanei, quindi ecco, queste sono categorie umane che transitano per Firenze e sono però hanno immediatamente il marchio, hanno una copertura ideologica che è quella della fiorentinità e della cittadinanza, cioè sono immediatamente vogliono essere ricondotte all'internità, all'inside della nostra comunità, no? C'è questo immaginario, cioè in qualche modo è gente nostra, è gente che se viene va bene che venga, ovviamente perché qual è la patente? Per far parte immediatamente della nostra comunità, per essere fiorentini a tempo e cittadini temporanei, è la spesa. Essendo gente che spende e spende bene, perché sono studenti, stranieri, manager, docenti e altri professionisti che vivono di fatto in più città durante l'anno. La media di queste affitte è superiore ai 2 mesi, circa 80 giorni. Fascia alta dei nostri ospiti resta in città. Più di 6 giorni, quasi la maggioranza dei nostri ospiti. Si spende intorno agli 80 euro al giorno. Ok? E Firenze è la città più alta al secondo posto, dopo Roma. Poi, ovviamente, va a vedere altri prezzi, però ci tenevo a dare questa notizia anche perché Ferragamo, tra le aziende che abbiamo visto e ricordiamo sempre legata alla vicenda aeroportuale, nella manifestazione degli imprenditori del dicembre 2017, che erano, di fronte all'attuale ingresso dell'aeroporto di Peretola, con il loro manifesto, con i loro striscioni e megafoni per il sì al nuovo aeroporto. Ecco, non fanno mistero di essere tra coloro che ci guadagnano e ci guadagnano bene per quanto riguarda il turismo. Ovviamente non tutto il turismo. Anche qui, piano piano, attraverso le mie cronache, senza nessuna presunzione, ognuno di voi guardando il giornale può arrivare alle stesse conclusioni, ma visto che io lo faccio, non è che voi lo delegate a me, ma in qualche modo lo sto facendo un po' per tutti coloro che ascoltano. Mano a mano, leggendo le cronache, si comincia a intravedere quello che è il disegno, o perlomeno uno dei disegni, ma uno dei disegni portato avanti da una forza motrice, un gruppo consolidato di aziende molto forti, molto ben intrecciate, addentellate alla politica, che vogliono per Firenze non un turismo di massa e cialtrone, ma un turismo selezionato, un turismo che spende molto. E quindi poi tutto questo di fatto fa anche a pugni con l'obiettivo poi di decuplicare, di costruire un aeroporto intercontinentale che aumenta a dismisura questi numeri. Cioè, da una parte si vogliono turisti selezionati, ricchi che spendono e non troppi, che non intasino musei, che non facciano code e che non prendano d'assedio la città, perché poi la città presa d'assedio dal turismo di massa e cialtrone perde di valore perché non è più una città esclusiva. Quindi si entra dentro una spirale dalla quale non si riesce a uscire, non si vede via d'uscita. E noi, diciamo come abitanti, senza vergogna, diciamo anche come oppositori sociali e politici, vediamo come unica alternativa e via d'uscita il fatto che la città, l'area metropolitana intera, i territori appartengano ai propri abitanti, ai propri cittadini, che li ridisegnino in base ai propri bisogni, alle proprie necessità e che siano demercificati e che ci sia una vera e propria liberazione da quello che è l'affarismo in tutte le sue forme, quello degli appartamenti, quello degli aerei o qualunque esso sia. Con questo chiudo e vi saluto, vi ringrazio per il tempo che ci avete dedicato, ci sentiamo la prossima settimana. Un saluto a tutti voi, ricordandovi e raccomandandovi di ascoltarci in streaming lunedì alle 15:30 in diretta, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì in replica sempre alle 15:30. Se no, sul sito di Radio Wombat anche il podcast. Ciao, saluto a pugni chiusi e a risentirci alla prossima. Ciao ciao e buona lotta.